intanto vi do il benvenuto, buonasera a tutte le signore e signori che sono venuti a visitare questa biblioteca in occasione della nostra serata in compagnia del professor Silvano De Marchi, del dottor Eugen Galasso e di Patrizio Zindaco, che spesso ci accompagna nelle nostre iniziative e presta la sua voce alle letture interpretative. Questa sera abbiamo appunto l'occasione di ascoltare direttamente dall'autore e dal moderatore alcune riflessioni in merito al libro Caso di Silvano De Marchi e quindi anche delle riflessioni sulla vita, riflessioni sempre filosofiche e teosofiche, perché poi il professor De Marchi ci travolge e ci spinge dentro in un pensiero molto più profondo. Ecco, ci sono delle occasioni, le sue presentazioni sono sempre dei momenti di riflessione molto interessanti, con delle suggestioni sempre nuove. Vi porto i saluti dell'assessore Tomasini, che è il presidente della nostra biblioteca, e anche un saluto da parte del sindaco Spagnolli, che si scusa ma per motivi di salute non potrà partecipare questa sera, e saluta non solo i nostri ospiti ma anche i nostri utenti e le persone che questa sera parteciperanno a questa iniziativa. Vi ringrazio, vi auguro una piacevole serata e spero di rivedervi qua in biblioteca. Noi lasciamo sempre un modulo di iscrizione perché abbiamo piacere di poter far conoscere sempre più persone i nostri servizi. È una piccola struttura, ma cerchiamo sempre di essere attivi e al passo anche con i tempi. Grazie. Io inizio purtroppo con un ulteriore, diciamo, annunciando un'ulteriore defezione, nel senso che il presidente dell'ASA, Franco Latino, è ammalato con febbre, quindi oggi non potrà esserci. Ecco, questo semplicemente a modo di comunicazione aggiunta alle altre che dava la dottoressa. Ora, quando si dice, ed è spesso una formula così, diciamo, di convenienza, che è un gradito dovere presentare questi libri, io invece dico, e d'ora in poi dirò Silvano, perché ci conosciamo bene, per il professor De Marchi, ecco, invece qui è un gradito veramente piacere presentare questi libri, sia quello diciamo teorico, che è L'assurdo nella vita, e di cui tratterò nella prima parte, e poi la raccolta nuova di poesie, diciamo meglio la silloge di poesie, che è Occaso. Ora, una considerazione a priori, previa se volete, per quanto riguarda L'assurdo nella vita. In genere si dice Harry Heine, il vero nome era Harry Heine, attenzione, Heine del topo, ma essendo ebreo, solo dopo, quando si converte al cristianesimo riformato, al protestantesimo, assume il nome Heinrich. Harry Heine diceva, dice, perché sono cose attuali, e lo dicono anche altri, lo diceva più recentemente Pourquoi des philosophes, Jean-François Revel, i filosofi, molti filosofi scrivono male. Ecco, Silvano è una felicissima eccezione, no? Così, riflettendo un attimo su quanto diceva Heine, zur Geschichte der Religion und der Philosophie in Deutschland, no? Per la storia della religione e della filosofia in Germania, un testo per i francesi, soprattutto, diciamo che Heine pubblicava da Esule a Parigi. Ecco, se avesse letto invece che Kant, che già scriveva un po' male, Heidegger o altri, dove l'intrico è totale, no? Non diciamo altro, allora avrebbe infierito ancora di più. Invece, ecco, in questa raccolta di saggi di Silvano De Marchi trovate una chiarezza espositiva estrema, e guardate che non è poco, perché il filosofo in genere fa una fatica in più, soprattutto se non è, invece Silvano lo è, anche letterato. Diciamo, lo scrivere in modo chiaro è difficile, sia per comunicare il proprio pensiero, sia poi diciamo per comunque dargli uno stile che sia decente, no? Che sia veramente congruo, e qui è uno stile invece sublimis, no? È uno stile alto, elevato, il famoso sermo sublimis. Accennava già la dottoressa Trevisan, in Silvano De Marchi c'è poi un di più, ho detto filosofo, ho detto letterato, ma c'è anche un approccio, io cercherò di dire qualcosa su questo, di tipo teosofico, di tipo, diciamo pure tranquillamente, perché sa da dire, diciamo, esoterico. E ecco, diciamo, il trattare temi che altrimenti non sono temi quotidiani in modo chiaro, in modo appunto elevato al tempo stesso, e non è una contraddizione, lo dice chi purtroppo, diciamo, si perde spesso nelle ipotassi, cioè nelle posizioni subordinate, eccetera. Quindi, insomma, ecco, è un merito, è un merito in più, soprattutto appunto se si parla di questi temi, no? Quando si parla di questi temi, spesso il rischio si dà. A che cosa sono dedicati i saggi dell'assurdo nella vita? Sono dedicati a problematiche, il sottotitolo è già emblematico, riflessioni filosofico-esistenziali. Diciamo, non per esempio a questioni prettamente metafisiche, non a questioni di logica pura, ma a questioni che attengono soprattutto a problemi etici, a problemi antropologici, soprattutto, attenzione, nell'ottica dell'antropologia filosofica, cioè la riflessione appunto sul senso della vita, no? E in forma molto seria, in forma rigorosa, Silvano De Marchi affronta però queste tematiche anche con, ecco, un fondo che però è abbastanza presente e spesso anche molto pregnante, di tipo umoristico. Voi sapete che lo humor non è prettamente la comicità, altra cosa è la comicità, diverso è quello che noi chiamiamo appunto lo humor, il sense of humor. Chiaro che non si tratta di saggi, non poteva essere qualcosa. Io cito un film che a me è piaciuto molto, adesso scandalizzerò qualcuno dei presenti, The Sense of Life, no? dei Monty Python, un film anche blasfemo, anche così irridente rispetto a tutto. Io dico la verità, ho trovato moltissimo là. Chiaro che diciamo, in quel caso non solo lo humor, ma anche la comicità caustica, nichilista dei Monty Python non c'è nel professor De Marchi, però ci sono dei rilievi abbastanza importanti. Ecco, intanto qual è l'impostazione di fondo, perché anche questo è da chiarire dal punto di vista filosofico, attenzione, dal punto di vista filosofico, quindi la dimensione, diciamo, esoterica, cioè rivolta a pochi, rivolta a chi è già in qualche modo addentro a certe problematiche, quindi non exoterico, non diciamo quanto è per tutti, ma quanto è questo poi si trova nelle pieghe del testo, no? Nelle pieghe di tutti i testi, meglio, qui raccolti. Ma ecco, a livello diciamo esoterico esplicito, dal punto di vista filosofico, e io ho una notazione di Silvano in questo senso, diciamo l'influenza kantiana è forte, cioè a dire c'è un approccio di tipo intellettivo, forse meglio che intellettuale, cioè c'è un approccio che noi raggiungiamo attraverso la scienza, e c'è invece un altro livello di conoscenza che è dato evidentemente dal sentimento, che è dato dall'intuizione, e che è dato per chi crede evidentemente anche da un rapporto mistico con l'assoluto. Sottolineo mistico in quanto io qui fra l'altro condivido molto, e quindi non vorrei spingermi troppo oltre nel diciamo nel complimentarmi ulteriormente, perché credo di averlo già fatto. C'è anche una critica non larvata non tanto alla religione, attenzione, ma alle forme istituzionali che la religione assume. Cioè a dire la religione non neppure della Chiesa, ma diciamo delle autorità ecclesiastiche. Evidentemente per chi è nato come è successo sia al professor De Marchi sia a chi vi parla in ambito cattolico e si è formato anche in questo ambito, il diciamo l'oggetto del contendere comunque è questo, no? E evidentemente lo è da un punto di vista delle scelte diciamo di tipo morale, di tipo etico, soprattutto morale però, e lo è anche dal punto di vista dogmatico, no? Cita giustamente Silvano ad un certo punto in uno dei primi testi il fatto, ecco, che per esempio nei monasteri ci siano preghiere, ecco, per purtroppo vi sono delle congregazioni claustrali che ritengono di salvare i bambini con la preghiera. Ciò nonostante ne muoiono 3 milioni all'anno. E poi altre riflessioni, per esempio, sul problema dell'esplosione demografica, no? Voi sapete che in certi ambienti, non solo confessionali, per esempio anche nell'ambito di certo terzo mondismo, si dice che il vero problema, non so se qualcuno segue tutta la problematica attinente al terzo mondismo latinoamericano, io lo seguo da molto tempo, Chavez eccetera, si dice il vero problema non è la demografia, sono le condizioni socio-economiche. Può essere vero, però è chiaro che un surplus di popolazione, un qualcosa che Silvano rileva, crea ulteriori problemi aggiuntivi rispetto a una situazione socio-economica che è difficile in quei paesi. Al di là poi di scelte, qui ci sarebbe da parlare molto, ma diciamo di scelte nei singoli paesi, perché io non voglio entrare in merito, ma la situazione per esempio argentina attuale non è la situazione che si ha in Cile, la situazione colombiana non è quella appunto del vicino Venezuela o quella del Paraguay, eccetera. Ecco, qui Poi senza entrare in merito, anche perché qui poi giocano fattori anche diversi e fattori spesso anche rivalità che qui non corre merito di richiamare in modo particolare. Volevo così entrare in merito anche ad alcuni di questi saggi. Ecco, per esempio, le forze distruttive della natura. Qui giustamente con molti richiami culturali, qui Silvano cita Leibniz a proposito del migliore dei mondi possibile, leibniziano, però evidentemente potremmo citare anche e contrario, cioè in senso contrario, quanto diceva invece Voltaire, che era, come potremmo dire, una sorta di pessimista critico, di pessimista che poi invece sul terremoto di Lisbona, qui appunto si riferisce giustamente il professor De Marchi a quello di fine Settecento, ma ce n'era stato uno precedente nel 1600 che appunto Voltaire aveva esaminato, in cui contraddiceva assolutamente le tesi leibniziane sul migliore dei mondi possibili, e invece diceva, ecco, queste emersioni della natura, queste emergenze anche della natura che sono, pare, imprevedibili, no? Avrete sentito tutte le polemiche anche di tipo giudiziario, non ricordo bene quando, qualche mese fa, sulla prevedibilità dei terremoti, no? La questione della commissione appunto sismografica, eccetera, no? La magistratura che opina in modo diverso dagli scienziati, no? Quindi vabbè, qui poi ognuno siamo, diciamo, tutti persone ragionanti, quindi su questo ci facciamo un'idea precisa, al di là poi delle singole scelte, sapendole confrontare, sapendo ragionare, diciamo, ex novo, anche se a partire da dati che sono inoppugnabili. E quindi riflessioni che si facevano sempre, e qui giustamente cita anche Plinio, e Plinio il Giovane nella fattispecie, e Leopardi, i versi ineliminabili, direi, della Ginestra, e quindi le riflessioni che da questo si fanno. Poi un saggio che verrà invece anche letto, quello sul buon selvaggio di Rousseau e Lévi-Strauss, o Lévi-Strauss, che dir si voglia. Lévi-Strauss era un alsaziano di origine ebraica, e quindi si può dire sia Lévi-Strauss sia Lévi-Strauss, senza far torto a nessuna delle possibili pronunce, no? Sono omologabili entrambe. Ecco, il discorso di Rousseau, voi vi ricordate tutti, no? Le bon sauvage, no? Il buon selvaggio, che poi viene corrotto entrando nella cosiddetta civiltà, no? È in realtà la prima fase del pensiero rousseauiano, e poi Rousseau stesso pone dei forti limiti a questa sua, diciamo, giovanile riflessione. Però il punto di forza del saggio del professor De Marchi è un altro, cioè a dire: esistevano costumi, esistevano patterns, cioè modelli culturali, modelli antropologici diversi, per cui era completamente diversa anche la morale. Qui giustamente, riprendendo appunto Lévi-Strauss, fa l'esempio degli indios, tra virgolette, perché la definizione non è molto corretta, voi sapete, no? Mutuata da dall'eurocentrismo, diciamo, dei conquistadores e prima degli scopritori, no? Cristoforo Colombo pensava di essere andato nelle Indie, eccetera, sapete la storia, quindi è inutile dire. Ecco, i Nambikvara avevano costumi di tipo molto diverso dai nostri e da quelli civili o cosiddetti civili, e quindi naturalmente a partire dalle riflessioni di un etnografo come Lévi-Strauss potremmo arrivare a un sostanziale relativismo, comunque a mettere in crisi dei modelli che siano assoluti, assodati. Io qui ricordo, perché mi piace ricordare, che nel 1700 c'era un autore, oggi vi cito solo personaggi scandalosi, a parte il nostro autore qui presente, cioè il cosiddetto divino marchese, il Marchese de Sade, che molto prima, sia nella Philosophie dans le Boudoir sia in altri testi, parla del fatto che, per esempio, l'incesto e l'omicidio in certe culture invece erano perfettamente accettabili. In realtà però lo erano anche nel 1600 romano venato di ispanismo. I Borgia notoriamente praticavano queste cose, sia l'una cosa sia l'altra. Quindi naturalmente c'è anche un discorso sull'ipocrisia e un discorso latente da fare, ragionando a partire da questi testi che sono di estrema fecondità. Molto belle anche le riflessioni sulla prima topica freudiana, cioè über ich, ich es, superio, io es, o anche quelle su Eros e Thanatos, no? Amore e morte. Poi tout se tient, come si dice, no? Tutto si tiene, perché poi Amore e morte, voi sapete che è uno dei principali poemetti, direi, della poesia italiana, Leopardi, no? Ancora una volta, torna, se volete, parlavamo di Leibniz, torna dalla finestra quello che era temporaneamente uscito dalla porta. Poi, ecco, il discorso di Pascal nelle due dimensioni, no? C'è un esprit di geometria, uno spirito geometrico, che è quello di Descartes, quello di Cartesio, e c'è invece un esprit de finesse, che è appunto quello che ci consente di recuperare la dimensione, diciamo, del sentimento, dell'intuizione, della fede. Attenzione, perché non è vero che siano poi due mondi staccati. Una piccola, mi sia consentito, anche perché anche Silvano vi accenna nel libro, una piccola dimensione sugli emisferi cerebrali. Voi sapete che fino a pochi anni fa si diceva l'emisfero sinistro è quello della conoscenza scientifica, l'emisfero destro è quello dell'intuizione, dell'arte, del sentimento, della fede. In realtà ora sappiamo che, rimanendo parzialmente tale divisione, che però non è dicotomica, cioè non c'è una separazione tra i due ambiti, noi sappiamo che in realtà le interazioni sono totali. Ma voi pensate solo a una cosa: la teoria della relatività, lo dice Einstein, quindi lo dice il protagonista di questo, nasce intuitivamente. Einstein dice molto chiaramente: dopo ho dimostrato matematicamente la teoria della relatività, però diciamo all'inizio l'ho intuita, no? E qui naturalmente anche ulteriori riflessioni che sono da fare, che noi tutti, credo, dovremmo fare, e questo libro poi ci spinge a fare. Ecco, la scommessa sulla fede, no? Anche io qui vorrei proprio prendere a testimone, perché è una cosa che mi ha fin dagli anni del liceo mi ha coinvolto. Mi ricordo le discussioni sempre amichevoli e concordi, peraltro, con il compianto Don Giuseppe Rauzzi. Ho letto che è stata fatta una commemorazione, purtroppo non c'ero, e come quasi sempre, quindi non ho potuto presenziare. Ma ecco, l'illusione, diciamo, della scolastica e della neoscolastica di dimostrare, mi ricordo anche il compianto Monsignor Canale era su questa linea, il voler dimostrare per ragione. Vi ricordate, no? Ex causa, ex fine, ex motu, eccetera, no? Le dimostrazioni di Tommaso d'Aquino, che poi invece si arrestano a un certo punto, perché arriva a dimostrare l'esistenza del motore immobile aristotelico, poi comunque ci vuole diciamo l'ulteriore carburante, se vogliamo, della fede. Quindi tanto varrebbe probabilmente lasciare questo tipo di argomentazioni, e Silvano De Marchi lo fa in modo molto efficace. Quindi questo discorso della scommessa pascaliana, che poi sostanzialmente è ripreso da un pensatore molto, molto meno mistico e molto meno religioso, anche se uso sempre con tra virgolette questo termine, quale è Kant, che naturalmente si muove già in un'ottica prettamente illuministica. Però ecco, il discorso della scommessa su una dimensione altra, sul totalmente altro, diranno poi pensatori novecenteschi. Questa naturalmente si può fare al di là di tutto il costrutto, diciamo, della riflessione tomistica e poi neoscolastica. Qui direi sono veramente dei testi, adesso poi li sentirete dal vivo con la voce dell'amico attore Patrizio Zindaco, che sono, diciamo, di estrema fecondità. A che cosa, per riprendere quanto citavo prima, no? Pourquoi des philosophes, cioè a che cosa servono i filosofi? Ma direi per farci ragionare ulteriormente, e questo Silvano De Marchi lo fa. Probabilmente, ecco, Silvano De Marchi si definirebbe, io non lo so, magari spero di non... come si può dire, di non travisare quanto tu pensi di te stesso, però io credo che Silvano si definirebbe un cultore di filosofia, un laureato in filosofia, un docente di filosofia, che però magari non si considera filosofo, ecco, invece lo è. L'etimo è, voi sapete, l'amante del sapere, e questo, diciamo, Silvano De Marchi lo è in pieno. Prescinde qui da ogni tecnicismo. È un libro in realtà impegnativo, dato il tema, ma è un libro non difficile. È magari complesso nel senso letterale, no? Cum e plexus, cioè dove ci sono continue interazioni, le sinapsi funzionano, diciamo, appunto nel senso che dicevo, cioè quello di costringere amichevolmente, ben inteso, il lettore a ragionare ulteriormente, perché poi diciamo appunto se noi impariamo a memoria quanto un pensatore dice, evidentemente non serve quasi a nulla. Se invece riflettiamo su ciò che abbiamo letto, abbiamo approfondito, allora ha un senso, e questo senso qui c'è in pieno. Da Il buon selvaggio di Rousseau e quello di Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss ha dimostrato come certe comunità o tribù selvagge nell'interno del Brasile, come quelle dei Nambiquara, che riproducono un modello di vita primitivo ed elementare, avessero una concezione morale totalmente diversa dalla nostra, per cui, ad esempio, la poligamia era consentita al capo in cambio delle sue prestazioni. I rapporti sessuali avvenivano pubblicamente o quasi, tra lo sguardo divertito degli astanti. L'omosessualità era permessa e, in un certo grado di parentela, istituzionalizzata. E, cosa assai più importante, l'eliminazione per veleno di un membro del gruppo che poteva turbare la vita comunitaria era cosa del tutto naturale. Tutto questo veniva compiuto senza remore di ordine morale o crisi di coscienza o rimorsi. Per uno di questi selvaggi la perdita degli ornamenti costituiva motivo di tristezza e di depressione, mentre l'uccisione di un nemico era motivo di orgoglio e di gioia, e la soppressione di un appartenente al gruppo veniva decisa e accettata con indifferenza. Eppure, questa particolare vita di gruppo, che a noi per certi aspetti può apparire immorale, era caratterizzata da continua ilarità e spensieratezza, perché l'unica preoccupazione era data dalla necessità della sopravvivenza nel procurarsi il cibo necessario nella bella e nella brutta stagione. Scrive il famoso etnologo: «Ma questa miseria è animata da bisbiglie e da risa. Le coppie si stringono nella nostalgia di una unità perduta. Le carezze non si interrompono al passaggio dello straniero. Si indovina in tutti un'immensa gentilezza, una profonda indifferenza, una ingenua e deliziosa soddisfazione animale e, mettendo insieme tutti questi sentimenti diversi, qualcosa che somiglia all'espressione più commovente della tenerezza umana». Dalle due dimensioni, Pascal. Seguiamo il ragionamento di Pascal nella sequenza di questi passi tratti dai suoi celebri pensieri. Come non so di dove vengo, così non so dove vado. So soltanto che, uscendo da questo mondo, cadrò per sempre o nel nulla o in potere di un Dio sdegnato, senza però conoscere quali di queste due condizioni mi toccherà in sorte per l'eternità. Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. Voi avete respinto l'uno e conservato l'altro. Amate forse voi stessi per ragione? Pesiamo il guadagno e la perdita nel caso che scommettiate in favore dell'esistenza di Dio. Valutiamo questi due casi. Se vincete, guadagnate tutto. Se perdete, non perdete nulla. Scommettete dunque senza esitare che egli esiste. Un ragionamento che non piace ai teologi, ma che nel suo opportunismo è condiviso da molti, trattandosi di un mistero per la ragione e non per la fede di chi crede, superando il dubbio. Pascal, insigne matematico, aveva fatto degli studi sul calcolo delle probabilità e tra queste mette la fede. Egli distingue tra l'esprit géométrique e l'esprit de finesse. Il primo valido per le scienze che deducono dai principi le conclusioni, il secondo che penetra nel cuore delle cose, indicato per le attività e discipline che si riferiscono all'uomo, morale e religione. Due vie tra loro divergenti. Il Dio colto attraverso la fede è un Dio di amore e di consolazione che riempie il cuore e fa sentire all'uomo la sua distanza. Non si coglie con la ragione, ma con la fede, che tuttavia rimane un rischio e comporta la scommessa. Ecco, io ringrazio ancora l'amico Patrizio. Ecco, parlando poi di un altro libro recentissimo, questo proprio possiamo dirlo fresco di stampa, che è Occaso, un appunto silloge poetica, noi vediamo che non c'è in realtà soluzione di continuità tra il professor De Marchi filosofo e Silvano poeta. Silvano è pensatore, è poeta, è narratore, io non ne parlo perché però ho appena occhieggiato e letto qualcosa da questi racconti, stranezze che sono veramente anche simpaticamente birichini, e mi viene in mente appunto, parlavamo di Pascal, l'avete sentito, qui naturalmente poi i sentieri possono anche dividersi, perché appunto c'è chi invece permane nella dimensione solo unicamente razionale. Io mi ricordo l'esimio compianto professor Lazzarini, che escludeva una via di fede o una via comunque diversa dalla razionalità, neopositivista logico. Ecco, qui evidentemente siamo su tutt'altre dimensioni, no? In Pascal e in chi richiama la differenza appunto tra le due vie. Così, per fare uno scherzo, c'era Brassens che invece diceva: il mio vicino di sopra, un certo Blaise Pascal, appunto mi ha dato un consiglio amichevole, dice. Cioè anche Brassens era un così, insomma, non credeva in nulla, o comunque non credeva in nulla di trascendente, diciamo meglio. Richiama giustamente il Bonhoeffer a un certo punto, Silvano, nel libro teorico. Si può aver fede anche per esempio nell'umanità, no? Senza necessariamente andare alla trascendenza. E invece diceva, ironicamente però, Brassens dice: il consiglio così evidentemente impossibile cronologicamente di Pascal era di credere e avrai più fede credendo, no? Il solito argomento che anche qui viene abbastanza messo in crisi, pur se appunto recuperato altrimenti. Dicevo Occaso è la dimostrazione ulteriore della capacità di scrittura, però in questo caso di scrittura poetica, che è totalmente diversa evidentemente dalla scrittura in prosa, che funziona quello che appunto strutturalisticamente viene definito in un certo modo, quindi diciamo una capacità di concentrarsi su emblemi, su parole chiave, evidentemente sul significante e non prettamente solo sul significato. E voi trovate, a parte ecco, la sempre felicissima struttura del verso, ecco, non c'è mai nulla di, ne parlavamo prima internos con Silvano a proposito di un'altra cosa che qui non cito, di un poeta italiano anche famoso della sua ultima produzione poetica. Ecco, qui non c'è mai nulla di prosastico nella poesia anche recentissima di Silvano De Marchi. Quindi c'è anche la struttura perfetta del verso e proprio la felicità delle immagini. La prima parte è, direi, dedicata anche con dei flash veri e propri, no? Al mondo della natura. Il mondo della natura è tipico della poesia, ma è tipico della poesia di Silvano De Marchi, cioè tutte le raccolte poetiche di Silvano De Marchi, dalle prime a questa che è la più recente, hanno, diciamo, la contemplazione della natura, no? Proprio questa contemplatio natura, ecco, bisognerebbe dire, con delle soluzioni anche molto molto fini, no? Con questa citazione in esergo, io ho una venerazione assoluta per Friedrich Hölderlin, quindi naturalmente qui mi taccio, perché è assolutamente giusta e assolutamente opportuna la citazione e diciamo il riportarla in chiave emblematica, in chiave introduttiva, ma direi anche sintetica, riassuntiva di tutto il percorso poetico che poi viene svolto, con una felicissima poesia in lingua tedesca, anche Arasvassa. Volevo però anche richiamare, per esempio, in questa poesia che non verrà letta, Canneto. Ecco, io dico la verità, ho dovuto guardare, confesso per motivi di tempo, ho dovuto guardare in Wikipedia, le vanisse, dice, e vanisse volavano, che tra l'altro a questa finissima consonanza, no? la V, la V affricata, che ecco, questo fonosimbolismo della V, no? Vanesse volavano, però vanesse francamente non sapevo cosa fossero, sono delle farfalle anche molto molto belle, molto cromaticamente molto suggestive, quindi anche il termine appropriato, questo in genere sfugge, no? In genere sfugge un po', soprattutto a chi per motivi generazionali è un po' corrotto da altre cose. Io insomma confesso che insomma, poeticamente io dico sempre influenzano Dante e Petrarca, ma influenza anche Lorenz Ferlinghetti, ecco, per quanto mi riguarda. Quindi magari queste certe finezze anche lemmatiche, cioè di vocabolo, spesso sfuggono un po'. Io dico la verità, le vanesse sapevo del nome proprio, però non del fatto che siano delle, appunto, è un lavoro, direi, adesso non entomologico, ma è presuppone una certa conoscenza anche di questo, e comunque una conoscenza del mondo naturale, no? La conoscenza del mondo naturale che spesso ci sfugge, soprattutto insomma ai cittadini, a chi è nato e vissuto in città o nelle città, il mondo naturale purtroppo sfugge o tende a sfuggire, perché sappiamo, insomma. Ecco, anche qui poi troviamo una parte, direi, aforistica. Non ne ho parlato prima, ma anche nell'assurdo, appunto, nella vita ci sono delle parti aforistiche. L'aforisma, io non vorrei così perdere tempo su questo, anche perché sono cose che sapete, ma l'aforisma è ben altra cosa rispetto al proverbio. Il proverbio, si dice, è la saggezza dei popoli. Io mi permetto di dire spesso il proverbio è anche la sciocchezza dei popoli. Ci sono dei proverbi che ecco, adesso senza entrare in dettaglio, ma spesso non esprimono particolare sapienza né particolare saggezza. Sulla saggezza io ho qualche problema, perché ho un compagno di università che si definisce un saggio, ma insomma, non entriamo in querelle personali, ma se la saggezza è quella del dottor Vladimiro, io preferisco non averla. Ecco, scusate, ma ecco, diciamo, l'esperienza semantica talora va anche oltre la cultura libresca, quindi uno si pone dei problemi. Ecco, poi c'è quest'altra sezione che invece guarda all'umanità, dove per esempio oltre a quanto dicevo, questi tre aforismi, volendo potremmo dire che sono quattro, c'è una coda che aggiunge qualcosa al terzo, è l'umanità. Cioè, per esempio, questo Georg, inesperto ragazzo, ti aspettavano giovani inattillati blue jeans con un fiore all'orecchio e l'orecchino sul lobo sinistro, ti aspettavano per offrirti alloggio in un'oscura stamberga e una notte di piacere, per poi lasciarti al mattino spoglio dei pochi soldi che avevi. Ecco, qui naturalmente c'è anche un altro aspetto, oltre al mondo naturale c'è il mondo umano. Parlavamo prima dell'antropologia filosofica, accennandovi, qui evidentemente la poesia ci dà una antropologia pratica, un'antropologia, in questo caso dell'amicizia, anche magari tra persone che non si conoscono precedentemente, ma che si vengono a conoscere, come in questo caso in un viaggio, per esempio, e che necessitano di aiuto. Ecco, poi per esempio questo Franz, con questo Du bist mein einziger Freund, che fa da incipit, diciamo, della seconda parte di questo scenario, nel caso specifico, e poi il mondo naturale che però richiama anche il mondo umano. Tacevano i merli, non so se sì. Venga letta, ecco. Poi c'è questo felice incipit, diciamo, di una ulteriore sezione, questo Lilie, dove c'è un gioco molto fecondo e molto sia piacevole sia efficace, perché è An Lilia Pizzini Menelirin, quindi c'è il gioco sul nome e poi sul fiore, evidentemente, no? E qui, ecco, poi adesso purtroppo tutte non si possono non si possono esaminare, però un cenno io ritengo che vada fatto. Ecco, qui poi le esperienze di viaggio, le esperienze naturali che più profondamente si fondono sia in forma simbolica sia in forma di affronto diretto col mondo, che è invece il mondo, se vogliamo distinguere i due livelli, il mondo umano. Poi questa sezione che è l'amato, con in esergo questo Ich kreise Gott um den uralten Turm, no? Che è Rilke. Io giro intorno a Dio, attorno alla torre antica, no? Primigenia, se volete. Ecco, e anche qui c'è questo misticismo di Silvano De Marchi che io trovo efficacissimo. Citerò solo un verso che è abbastanza inquietante, o insomma alcuni versi, per poi arrivare al clou in qualche modo di questo numero uno del settimo, scusate, sonetto. Dice: e ora che dei miei giorni sono giunto alla fine, aspetto paziente, dove c'è tutto il lavorio anche etimologico, no? Da patior, quindi da soffrire, dal patire, e questa è la radice di paziente, no? Quando si dice anche un paziente, non so, presso un medico, eccetera, presso uno studio medico, vuol dire anche questo, una persona che soffre, questo è il vero etimo. Attenzione, noi poi nell'uso corrente, comune, ce ne dimentichiamo, però se pensiamo all'etimo latino, ecco, aspetto paziente il tuo, maiuscolo, abbraccio mortale. Ecco, questa condizione che volendo è quasi una contradictio in adiecto, no? Quasi una contraddizione in termini. L'abbraccio, però, un abbraccio mortale, perché è quello che si avrebbe, diciamo, al momento di partita. Quindi, ecco, io a proposito di versi come questo, cito un libro che ne ho citati alcuni altri, ecco, invece in questo caso non è assolutamente scandaloso, o meglio, può essere, forse per citare San Paolo, può essere scandalo per i gentili, no? Come diceva la croce, scandalo per i gentili. Qui citerò in italiano il titolo non va bene, non è adeguato, perché è più contraddittoria la questione. Cioè il libro che si chiama L'agonia del cristianesimo, di quello straordinario, so che Silvano lo ama non meno di me, quello straordinario poeta, drammaturgo, pensatore che era Miguel de Unamuno, di cui vi consiglio assolutamente tutto, anche il, come si chiama in italiano, è il commentario della vita di Don Quixote e Sancho, no? Il commentario sulla vita di Don Quixote e di Sancho, che è una riflessione anche quella, direi, profondissima, a partire da quel capolavoro assoluto che è il Don Quixote di Cervantes. Però io vi parlerò, vi accennerò a un altro libro che appunto è L'agonia del cristianesimo, e l'agonia del cristianismo nell'originale spagnolo, e attenzione, perché agonia non vuol dire solo lo stato di pre-morte, no, vuol dire dal greco l'agon, la lotta, il confronto in forma di lotta, di battaglia continuo che l'anima ha, volendolo dire in termini esoterici, tra la hyle e il pneuma, tra la materia e lo spirito, ma possiamo dire anche altrimenti, a seconda, insomma, della nostra sensibilità, delle nostre convinzioni, eccetera. Quindi io direi questo che sembra una stridente contraddizione, in realtà è proprio la condizione che Unamuno descrive in quel volume, a mio parere straordinario, no? Che viene spesso sottovalutato, no? Perché Unamuno è uno di quegli autori che ormai, salvo felicissime eccezioni, si studiano poco sia ispanistica sia filosofia, quindi diciamo entrambe le dimensioni, quella poetico-letteraria e quella filosofica, da queste viene in qualche modo espunto a favore di altri che spesso anche meritano meno forse efficacia, no? e minore considerazione. Ecco, io direi che, così un po' concludendo questa chiacchierata che ho cercato di imbastire, in entrambi i volumi troviamo profondamente la personalità, lo spirito del professor De Marchi che si esprime in un modo che è oltremodo felice, direi molto, molto chiaro, molto comprensibile, purché naturalmente si legga con una certa attenzione. Ovvio che la lettura, questo insomma non occorre essere il lector in favola che vagheggiava Umberto Eco per capirlo, no? Il lettore è continuamente un co-scrittore, un co-autore, no? E quindi quando si leggono le cose, diciamo, si pensa oltre, si pensa con l'autore, spesso si pensa anche diversamente dall'autore e si producono appunto nuove riflessioni. Nel caso della poesia è ovvio, c'è un aspetto analitico che ci permette di inquadrare metricamente, vi dicevo, qui dal punto di vista metrico e fonetico troviamo delle particolarità anche notevolissime, ma poi c'è anche un aspetto diciamo intuitivo, se volete sentimentale, e qui diciamo la consonanza con la scrittura poetica dell'autore è evidentemente richiesta, come dal punto di vista teorico è necessario evidentemente riflettere poi a partire da quanto l'autore scrive, a partire da quanto l'autore ci dice, e questo è un qualcosa di indispensabile. Ma ripeto, è una sorta di un diadoi, no? Cioè di un due in uno. Il Silvano pensatore non è diverso dal dal poeta, e si esprime evidentemente in modo diverso. Chiaro che la scrittura poetica è diversa dalla scrittura in prosa, soprattutto se la prosa è una prosa di carattere teorico, saggistico, no? E però ecco, tutto profondamente si tiene in Silvano De Marchi, non ci sono scarti, cioè c'è magari lo scarto nella sorpresa dell'invenzione poetica o nell'individuazione dei paradossi, dei paralogismi che ha il pensiero, per esempio quando il pensiero non arriva a cogliere determinate cose e necessita di un in tedesco c'è un'espressione in questo caso proverbiale, comica, però che è felice, no? Es riecht nach mehr, no? Cioè odora di mea con due e, allora mare, però anche mea con la e ha, e allora è il di più, no? In questo caso è il more, è il di più che è richiesto chiaramente, e qui appunto l'aspetto della co-scrittura. Quindi veramente, ecco, quando voi venite qui in biblioteca e fate una ricerchina, come magari nel mio caso, o fate un qualcosa di più importante, voi diciamo scrivete oltre a quanto trovate scritto, no? Che sia poesia, che sia pensiero, comunque poi lo definiamo, perché appunto qui poi ecco, veniamo alla poesia però. Parli dopo, no? Come? Dici qualcosa dopo? Ringrazio. Fiore solitario. Fiore solitario che dal lungo stelo ti elevi sopra bassi arbusti e godi dello splendore dei tuoi petali. Il profumo che emani richiama i volanti insetti che suggono il tuo nettare tra gli oscillanti stami. Passerà questa estate e comincerai ad avvizzire come ogni altro fiore. Cadrà l'orgoglio del tuo screziato calice. Perché qualcosa di te rimanga, affiderai al vento i maturati semi. Simile alla tua è la nostra vita. Nascere, splendere nella giovinezza e lentamente appassire per tornare alla terra, giacché questo è il destino di ogni vivente. Nascere per morire. Notturno. È gremito di stelle il cielo in questa notte d'agosto. Dalla terra si leva assordante il canto dei grilli, il frinire delle cicale. Quanto stupore e mistero in questa notte d'agosto. Capri. Sulla costa protesi, i lecci guardavano l'abisso del mare, e magnolie s'erano appisolate sotto la luna. Più non cantavano i grilli nella candida luce diffusa. Un caldo soffio giungeva dal mare e sordo il colpo dell'onda alla battigia nell'immobile notte. Ogni cosa in se stessa assorbita, senza sapere perché. Istanbul. Vorrei tornare a Topkapi, su quell'aerea terrazza da cui si apre la vista di Istanbul, coi suoi tetti che diventano oro al tramonto e la tremula marina del Bosforo. Su quella terrazza centellinavamo una tazza di tè, taciti e assorti nella magica sera, amico Samir. E poi, alla memoria, ci apparvero nel cielo di Ardesia galoppanti guerrieri saraceni e cristiani, e opulenti sultani, attoniati da splendide schiave, gran visir astuti e potenti, ed anche gli armeni, condotti in catene alla morte. Il sonno. Così simile alla morte, ogni sera blandisce gli occhi che videro questa umana miseria. Con mano leggera chiude le palpebre e concede l'agognato riposo. Antino. Eri tu, Antino, giovane vitigno, che redivivo passeggiavi sulle spiagge di Ostia, ricciuti i capelli e lo sguardo celestiale, ampie le spalle, stretti i fianchi e le cosce appoggiolate. Eri tu che con l'acerba bellezza incantasti l'imperatore Adriano e lo obliavi col dolce suono della lira. Scegliesti di affogare nel Nilo per diventare un dio, fedele segugio del tuo padrone, che per ricompensa ti immortalò in innumerevoli effigi. Mistero è la bellezza e il suo fascino nel cuore dell'uomo. Franz, ti ho visto passare, non eri tu. Ti tenevo nella memoria giovane, snello e di sorridente aspetto. Oh, le corse sul prato e poi i tuffi nelle verdi acque del lago. A gara si cercava di raggiungere l'opposta riva. Du bist mein einziger Freund. Tu sei il mio unico amico, dicesti, mentre eravamo al sole distesi. Ma il destino ci portò in lidi diversi. E ora che ti ho visto passare, così diverso da allora, dolce amico, non ho avuto il coraggio di chiamarti. Tacevano i merli. Traeva dal flauto note dolcissime, mentre il sole dardeggiava sulla radura boschiva. Vi accorsero le giadre fanciulle dai visi freschi di rugiada. Dolcemente danzavano sollevando le braccia, col piede leggero, sfiorando la tenera erba. Sugli alti rami tacevano i merli tra le ferme foglie dei faggi. È tutto fiorito quassù. La soldanella ha colto il colore del cielo. Costellano i pascoli ranuncoli d'oro. Come una fiamma, il rododendro si è sparso tra i cirmi. Salgono i sassosi sentieri giovani dai brevi calzoni di velluto. Dietro vi vanno dolci fanciulle, i visi biancorosa come mela. Sulle nude spalle ondeggiano le trecce disciolte. La loro meta è più su. Limpido lago. Passeggiando nel bosco di carpini e pini, d'improvviso si dischiuse un limpido lago. Di prima mattina il sole profondeva oro sulle quiete onde che con lungo fruscio si dissolvevano alla battigia. Sulla spiaggia i bagnanti passeggiavano come assorti dei dell'estate e tenere fanciulle si erano adagiate al sole del mattino e i bimbi saltellavano vispi con gridi di gioia. Chi di loro più felice? Per tutti si annunciava una giornata colma di felicità. Amaniti. In una radura del bosco, obliquamente illuminata dal sole, facevano mostra di sé le variopinte amaniti. La muscaria, dal cappello rubino, punteggiato di granuli bianchi. La falloide color verde muschiato. La verna, che ricordava l'inverno nel suo niveo candore. Tutte belle e splendenti, tutte mortalmente velenose per l'uomo. Più in là, rideva la comita un appello coi suoi grappoli azzurri, da cui l'animale per istinto rifugge. Allora mi chiesi perché la natura offre all'uomo questi variopinti doni mortali. Vita nel bosco. Ho affittato una capanna ai margini del bosco, ora che l'inverno è finito e si sciolgono le nevi. Sulla soglia ascolto il frusciare delle fronde e tutto si placa dentro di me. Filtrano i raggi del sole attraverso il rinverdito fogliame. Riposa il tordo appollaiato tra i rami e zirla. Indaffarata la gazza prepara il nido per la futura covata. Rivedo gli alberi, il sentiero che lo scorso autunno ho lasciato nella muta presenza. Sono riapparsi la bianca pernice, il fagiano dorato, il merlo dalla nera livrea e il becco giallo oro, il cuculo che mai si riesce a vedere. Poi cadono improvvisi acquazzoni, devastano il bosco ma durano poco. Cercano riparo gli uccelli sotto la quercia mestosa e tremano. Stasera verrà da me Oswald per giocare a 3-7. Quel suo giovanile candore mi incanta. Lo lascerò vincere perché gioisce come un bambino. Così avrò assicurata la compagnia serale. Ich weiß jetzt, weil du immer so froh bist, gli dissi ridendo. Adesso capisco perché sei sempre così allegro. Intanto, ai miei piedi dorme accucciato Diogene, un volpino rossigno trovato per strada. Quando poco discosto si gonfierà il ruscello per le nevi disciolte, sulle sue sponde andrò cercando l'asparago selvatico, la cicoria e il luppolo per le cene frugali con Oswald. Un bagliore di fiamma è il tramonto. Il cielo s'ammanta di lilla e d'oro, prima che cali il cupo turchino della notte. La divina natura vuole ancora una volta stupirci. Norvegia. Norvegia, patria sognata. Le tue foreste di smeraldo e le valli tempestate di fiori, i tuoi fiordi tra nude rocce e verdi acque spumeggianti presso cui s'annidano patati villaggi. Di luglio, sopra i monti cupi, il sole a mezzanotte, incanto per gli occhi, stupore per l'anima. Terra di incomparabili contrasti, silenzi appena mossi dal sussurro del vento, e a valle scroscio di assordanti cascate che danno brividi selvaggi. Tu, mio sogno, mio incanto. È finito. Ecco, ringrazio tutti di essere intervenuti questa sera così fredda che invitava a rimanere a casa, e ciononostante si sono sacrificati per venire, spero che non si siano annoiati. E ringrazio il professor Garasso per la sua acuta dissertazione, sia sulle mie riflessioni filosofiche che sulla recente poesia da titolo Caso, che appunto vuol dire tramonto della vita, avendo già 82 anni. E ringrazio l'attore Patrizio che legge in maniera egregia e quindi sa dare alla poesia quel fremito che la percorre. Grazie a tutti, se c'è qualche domanda da fare sono pronto a rispondere. Grazie. Ecco, qui ci sono i libri in omaggio per chi li vuole. Grazie.